altre, quello sì, ma quella roba no. No, io la verità mi stanno stati in compagnia e in casa con l'acqua. In casa c'è l'acqua, raramente, raramente qualche sera, qualche cosa fanno in casa, no? Ma in compagnia mi concedo qualche tipo di vita, qualche cosino magari in aereo, se c'è un pinello buono, però sempre moderato, ecco. C'è tattica magari che non funziona mai. Thank you. del biliardo, ma chi c'è? Non è crofili brutto ciò. Non è biliardo, la salma. Adesso magari gli chiedono il riscatto, no? Alle familiari. Diciamo, mi sparisce la pace, tutto quanto, e poi di nuovo da capo, perché sono fatto così, inutile a me mangiare, per me mangiare l'unico momento di pace che sia, quando uno si siede a tavola è un appagamento a quello che fai tutto il giorno, io la vedo così. Mentre invece mia moglie dice si mangia per campare, non si campa per mangiare. È un modo di vista diverso. A me per dire quando mangio mi piace assaporarla la roba, mi piace la roba saporita, ben condita. E l'insalata per dire, l'olio, se non c'è l'olio, come dico io, non mi piace. In effetti diciamo che noi siamo abituati a mangiare in un certo modo, grandi condimenti, grandi pietanze, non ci alziamo dal tavolo se non siamo belli, belli pieni per le cose, però in effetti diciamo che è un'alimentazione pesante, è un'alimentazione che poi dipende uno anche dal lavoro che fa, i movimenti che fa, dipende dalla costituzione, c'è chi ha costituzione che mangia quanto vuole e rimane sempre bello, in linea, bello, pesante, capito? E tante cose ci sono, tutto da valutare. Vabbè, diciamo che combini? Thank you. avrebbero messo lì la radio. Pancetta. cosa, ancora un terreno, aiutami. Tutto quello lì, i carboidrati li devi sempre ingerire. diciamo che io diete ne ho fatto parecchie, questi dietologi mi hanno detto, sono stati molto soddisfatti quando sono andato, e avevo dimagrito tanti chili, erano 48-50 circa in 2 anni. E quando sono andato alla visita non credevo nei loro occhi, diciamo, ma sapete chi è questo qui? No, non lo conosciamo. Adesso non so se hanno fatto una farsa, ma in effetti molta gente, anche amici, non mi riconoscevano. Poi quando mi riconoscevano, oh, malato, dici, cosa vai? Non va giù, sono a dieta e basta. No, torno a come ti ripi, ma stavi meglio. Non mi riconosceva nessuno per strada. Ok. Sì, vabbè, dai. Comunque, l'importante è anche molta frutta e molta verdura. Ok. Io ho cambiato cavallo, Gianni senz'altro se ne sei accorto. Com'è? E lì verso dall'altro, ma là, diciamo che non ti ascolto male. Io ti dico la verità, adesso. La frutta a me piace tantissimo, ma non la posso mangiare. Posso mangiare un'arancia, posso mangiare una mela, però non posso mangiare di più. E quando capitano quelle arance sanguigne che piacciono a me, che compra mia moglie dai milesi, guarda, me ne mangerei non un chilo, anche 2 chili. Quelle lì sono proprio buonissime, sono dolci e succose, proprio quelle rosse. Gianluca, comunque ti saluto, dai. Io pure. io praticamente, Gianluca, ho una sorella che è in coma dall'acqua, lo sai. Allora, è successa una cosa, mia sorella stava bevendo sempre molta acqua, è andata dalla dottoressa, si è fatto fare tutte le analisi. E hanno fatto anche quella del diabete, per vedere se era diabetica. E non risultava niente. La dottoressa l'ha presa per psicopatica, perché le diceva, io bevo 7 litri, 9 litri d'acqua, 10 litri d'acqua. Andava sempre, sempre aumentando di più. È arrivata a 21 litri al giorno. E che cos'era? Lei aveva il diabete insipido. E non l'avevano mai scoperto, perché il diabete insipido è un esame a sé che si fa. Quindi cosa è successo? Che è stata praticamente male, l'abbiamo, la donna di servizio ha suonato la mattina perché gli faceva le pulizie. E non rispondeva, meno male, aveva la chiave aperto, l'ha trovata riversa sulla vasca, lei non aveva dormito tutta la notte, si è seduta male la sera prima, ed è rimasta tutta la notte così, riversa sulla vasca da bagno, gli ha toccato la giugulare, gli pressava la giugulare, quindi ha perso ossigeno al cervello, eccetera, eccetera. Adesso purtroppo è come, è in uno stato proprio vegetale, lo so. La sorella ha compiuto 60 anni all'ospedale, non era ricchissima. Infatti la dottoressa gliel'abbiamo detto di andare a vedere come ne va ridotta, perché se lì non era in grado di capire, doveva farla ricoverare, e avrebbero capito subito cosa aveva, perché come l'abbiamo portata all'ospedale, in rianimazione, i dottori hanno capito subito cosa aveva, lo sai? Sì, infatti. No, ma anche lo stesso dottore ha detto, se non era in grado di capire, poteva farla ricoverare, l'avremmo capito noi subito. Come l'abbiamo capito adesso, lo capivamo prima, e se lo capivamo prima era una fesseria, erano delle fastidie da prendere, e si sarebbe rimessa in sesto tranquillamente. Anzi, Alessio, e dove sarà secca? Dalla zona industriale per prendere per rimettersi nella strada Prestintino. ha fatto la guida anche per Caputtardo, dove è rimasto volerotti all'aria, c'è la macchina a capo in giosso, e lui è uscito tranquillo e non si è fatto un motociano. Anch'io ce l'ho la moto, però è uno scooterone la mia, dai, un 400. Siete andati all'ospedale a fare il corso. comunque anche noi per questo di lavoro abbiamo fatto quello della DICIN, ci hanno lasciato la testa del tutto. E io ancora lo sto facendo se mi siamo volati, tu no. Lo so. Io ho fatto parecchi notturni con l'ambulanza, ne ho visti tutti i colori, quindi incidenti, gente morta, gente ferita gravemente. Noi facciamo di tutto, al CISO facciamo di tutto, facciamo discese in corda doppia, per quando scendi per dire i burroni, per tirare su una barella. I ragazzi che abbiamo noi sono tutti molto preparati, sono ragazzi che hanno fatto corsi di tutti i tipi. Non si può dire che non sappiano fare, quello che fanno lo sanno. Usano anche il defibrillatore, eccetera eccetera. Per cui io ci sono tanti anni, però adesso sto facendo tipi di servizi diversi, facevo manifestazioni, tutte queste cose qua, servizi d'urgenza e cose non le faccio più, faccio qualche trasporto, però di urgenza ne ho fatto, non so se tu hai sentito quell'ambulanza che ha capottato a Sassari, che adesso ci sono ucciso di Porto Torres, l'abbiamo dato a loro. Quella lì c'ero io, ho detto, con la capottata, stavo facendo un massaggio cardiaco e ce l'ho preso in pieno, ci hanno fatto sbattere la semaforo e poi abbiamo capottato. E io abbiamo andato alla Via d'Italia di Cruno, sì, qualche anno fa sì, praticamente noi eravamo ad urgenza, mi sono fermate tutte le macchine a farci passare, ne è uscito uno dalla dietro la fila delle macchine e da guidare in pieno. No, è di più, è di più. Ed era un ex carabiniere. Pazienti, io sono svenuto, io sono dentro l'ambulanza perché come mi ha dato il colpo, mi ha sbattuto al semaforo, io sono andato a finire sul lavandino, ho preso un bel colpo e forse dal dolore sono svenuto. Avevo delle microfratture in tutta la gamba, ematomi, tutti i tipi, mi è caduto la plafoniera in testa, quel paese ci brillava. Poi come mi hanno tolto fuori, la prima cosa, ero scioccato, per istinto sono andato a tirare sull'ambulanza perché ho pensato alla paziente che fosse sotto. Invece la paziente, grazie a Dio, si era scampata, siamo andati a trovarla all'ospedale e stava bene. E poi come è andata quella storia lì? Ma la colpa di chi è? E da poco quest'estate eravamo io, mia moglie e il bambino, stavamo tornando dal mare. Mia moglie ha detto non passare dalla Budibuti, passa dalla 131 che c'è meno traffico. E siamo arrivati al semaforo di Ottava, lì siamo fermati al semaforo. Ero il primo dal semaforo, poi c'era una macchina dietro di me, arriva questa moto, sento boom, si è sbattuta quella macchina che c'è dietro di me, è volato il tipo, l'ho visto la moto tutta a pezzi che si sparpagliava nella strada, il tipo che è volato dall'altra scorsia, ho visto le macchine arrivare, la prima cosa che ho fatto non mi ho messo manco il giubbotto per istinto, caso ho preso, sono sceso dalla macchina, l'ho acchiappato quel ragazzo, me l'ho caricato addosso e l'ho portato dall'altra parte per salvarlo perché se l'avrebbero schiacciato. E aveva una frattura scomposta nel braccio. Lui non se n'era accorto nel momento perché a caldo non lo sentiva, ma io l'avevo vista. L'ho fatto sdraiare dall'altra parte della strada. Questa ragazza, la vuole una sigaretta, ma vai, ma vattene via, cosa? Ma lasciala fumare, vai via, gli ho detto, lascialo stare, cosa sigaretta, se lo vuoi fare svenire. E ho detto come va? E lui dice mi fa male un po' il braccio, non lo muovere il braccio, non aspetta, non voglio fare, non lo muovere il braccio. Quando poi è arrivata l'ambulanza, è arrivato Mike 01, quello di Porto Torres, è arrivata l'America. C'era Sandro Sale che guidava, che è un amico. Gli ho dato una mano a barellarlo, tutto quanto, l'abbiamo caricato e se l'ho portato via. Comunque la moto è una massa cristiana, io la moto la paragono al mare, è infida come il mare, se tu gli dai di lì si comporta bene, ma se gli dai del tu è chi dà la ragione, esatto, sì. Ti piace perché il vento, il senso di libertà che ti dà. Ancora caduto, no? Io ho un amico che fa cross e cose, proprio salta proprio, quello c'è la passione del cross, e in una prova proprio lì vicino a Polo Torres è caduto malamente, è stato in coma un bel tempo, adesso si è ripreso e cosa, boh, c'è sempre la passione. Io ho capito, sì che sei stato quello che ha fatto la cosa da Dakar, però lì è il cugino di un'amica mia, devo tornare a Gurri, devo andare a Torra, io vedi ciò che era stato un segno, venne una sassa di Curri e moto, era un mancante gruppo, ma mai fede l'ubrimi, ma non l'ubrimi davvero, non andò a... Nei televisori e fa vita roba cristiana, no? Non è prete, ma gli ha lasciato questo segno. Addirittura si dà una volta di chi lo pure via da due di Napa Guiovassi, invece Guiovassi si è comprato una moto, la vasca di ciocca Gurri, ma già se sei Gurri, tu cavalo cavato e te li c'hai sentito, è puro, vedi? No, c'è gente che ha il vizio di correre con la moto. Una volta eravamo in sede, dove faccio servizio di ambulanza, lì, via Pirandello, se no. E via Pavese abitavo io prima. E via Pirandello è quella che dove c'è la palestra bunker. Prolungamento via Giovanni Pascoli, sai dove via Giovanni Pascoli? Poligono. Quello lì è via Pirandello, dove c'è il poligono? No, però verso un'altra parte, per uscirci verso la Butibuti. Esatto, e quella è via Pascoli. K. E oltrepassa anche la seconda rotatoria, sino praticamente dove sono i luci gialli lì. Arriva sino per la strada di Sorso, via Pirandello. Cappa, ma il primo pezzo solo, non arriva manco alla prima curva. Comunque io sono praticamente deciso di dove ci sono i campi, non so se hai mai visto i campi. Risultano a sinistra, tra la prima e la seconda rotatura, non arrivi a quel ponticello che c'è, prima del ponticello c'è il ciso a sinistra. Cappa. Sì, quelli lì sono gli stalli nostri. C'è un mezzo antincendio e due ambulanze. Quando c'era Vittori io ero responsabile dei servizi ambulanze. Ma sono stato poco. Non mi andava l'ambiente, sinceramente. Chi è? Un che sta parlando già solo? No. Un po' dottore. Eh? Un po' dottore. Comunque, io ho conosciuto anche Gianni Corrias quando c'era il season di Polo Torres, era prima di Gianpaolo, quando il season era ancora vicino all'Avis, non aveva preso per che onde, ma basta, non ci ho preso, sì, lo so, pagato, lo so. Ma io adesso devo chiudere, mi dispiace perché il discorso mi interessa. insomma, devo chiudere perché domani, se no mi manco il buco, come dice Edda. Va, il contraccambiamento del tracetto, ci sentiamo. Buonanotte anche a te e buona giornata per domani. Ciao ciao.